dire, se penso alla prima volta che sono entrato in un bar, posso pensare veramente a certi posti nel quale andavo con mia nonna che avevo 5 anni e lei, mentre faceva i suoi giri di spesa nella Corsica, nel paese, io ero sempre con lei, c'era sempre nei giri mattutini tra il panettiere, la merceria, eccetera, c'era sempre ovviamente il caffè molto italiano. E ne parlavo tra l'altro ieri con mia madre di questa cosa, che c'è sempre il giro dei bar preferiti, che a un certo punto per un periodo è quello, per un periodo è l'altro, specialmente nel paesino, paese, nel quale c'è lo struscio, l'unica via centrale con 8 bar, che tu dici quale scelgo, oggi sceglieremmo, non lo so, il più vuoto o il più buono, non lo so. All'epoca mi ricordo che c'era magari che per un certo periodo si va lì, per un altro periodo si va là, e quindi mi ricordo appunto questo bar che non era il preferito di mia nonna, ci siamo andati pochissime volte, ma ho questo ricordo preciso perché era un bar molto ampio, con quelle vetrine proprio da negozio, quindi del quale tutto verde, vedi tutto dentro, no? Con questo arredo iper anni 70, con gli appendiabiti tubolari in metallo, la radica scura sul bancone, cioè una roba proprio pesante, sai, quegli arredi pesanti anni 70. E mi ricordo che quel bar mi affascinava, non so bene per quale motivo, forse perché non ci andavamo mai. E quello è un po' il primo ricordo di essere entrato in un bar inconsapevole perché avevo avuto 4-5 anni. Io vengo spesso qui, più spesso ultimamente, nel senso che da post-Covid c'è stata proprio la riscoperta del posto vicino casa, perché cioè, ci verrei più spesso, ma c'è sempre un po' quella problematica del fatto che, nonostante sono più o meno cresciuto vicino a qui, conosco pochissime persone qui intorno. E quindi, avendo tutto un giro di persone che stanno Porta Venezia, Porta Romana, Corvetto, perché ci abitavo, è assurdo che portare la gente a ovest diventa sembra che sono in vacanza. Dicono, ah, bello qui, non male qui. Mica, è Milano, cioè non è così esotico, eppure lo vedono come esotico. E quindi, non potendo io più muovermi, riscoprirlo sotto casa è stato molto figo, cioè in realtà il primo approccio che ho avuto a sto posto è stato proprio il primissimo approccio, nel senso che siamo venuti a vedere casa da affittare, non quella dove siamo, ma una casa proprio nella via qua di fianco, e ci avevamo fatto colazione e avevamo detto carino sto posto, torniamoci, e poi in realtà è stato sicuramente la cosa che più ci ha tenuto qui intorno, ma proprio roba da proporlo a gente tipo venite. Hai presente quei video, ti dico proprio la cosa peggiore ma che sicuramente hai visto, quei video che ti spiegano come andare a votare, ok? Che c'è tipo una spiegazione fatta solo di grafiche, niente di girato, uno che ti dice metti la cosina qui, metti la cosina lì, da quello a... E quello lo puoi fare in qualsiasi ambito, perché mi è capitato di farlo per spiegare, che ne so, il biodiesel, mi è capitato di farlo per fare tutorial di app che dovevano uscire, che spiegavano come si usa l'app, per spiegare, che ne so, i risultati di un'azienda, che ne so, a fine anno dice abbiamo fatto questo, questo e quest'altro, e viene fatto tutto in grafica in modo che appunto è veloce, bello da vedere, veloce... cioè veloce sia visivamente che da produrre. Ed è stata un po' la mia fortuna fare sta roba, perché specialmente col primo lockdown nel quale non si poteva girare, mi arrivava lavoro a me, non ai colleghi che vanno in giro a fare riprese, perché produci tutto in casa lì, ovviamente, perché comunque anche tutte le situazioni anche legate al Covid, per dire, spesso le spiegavano con quelle robe lì. Anche c'è stato a un certo punto un decreto che doveva uscire alle 20:20, è uscito alle 21 e ridevamo del fatto che era il primo che usciva con le grafichine che spiegavano cosa si poteva fare e cosa no. E poi probabilmente non è vero che è uscito in ritardo per quello, però ci piaceva crederlo. No, io sono autodidatta. nel senso che ho fatto tutt'altro a scuola. Cioè, trovo che scegliamo la scuola da fare troppo presto, che non so quanta gente fa veramente la scelta giusta. E io non avevo nessunissima voglia di fare le superiori, quindi ho scelto una scuola orrenda di un professionale di elettronica del quale non me ne fregava assolutamente niente, e ho avuto la capacità, la forza, non lo so, la scelta di cambiare poi a finita la scuola con l'idea solo di arrivare a qualcosa di creativo. Non sapevo di che genere, era partito un corso che faceva, in realtà la prima roba che avevo fatto era una roba di 3D, non mi ricordo, c'entrava con il 3D, non animazione, aspetta, come si chiama? Vabbè, comunque roba di 3D, e poi niente, ho iniziato a lavorare in una post-produzione video e diciamo, ho dato una spallata di qua, una spallata di là e sono arrivato a fare quello che volevo fare, più o meno. Però tutto da solo, cioè tutto imparando da solo più o meno. Quindi ogni tanto in effetti mi manca un po' la teoria, cioè mi manca l'idea di aver potuto passare del tempo a studiare la teoria, che non ho avuto. Sì, ogni tanto mi leggo delle cose per curiosità personale, per approfondire delle cose. Però mi spiace non aver avuto il tempo scolastico, quando sei privo di responsabilità, di sbatti e pensi solo. Poi magari in quel momento lì non ci pensi perché sei giovane e non te ne frega un cazzo. E quindi non mi cruccio troppo della cosa. Però sai, quelle reminiscenze scolastiche che ti ricordi quella roba che ho fatto? No, perché non l'ho fatta. E quindi quando mi interessa me la vado a leggere ora. Ma proprio per il fatto che ti ho detto che secondo me è una scelta che viene fatta da troppo giovani. Cioè, adesso è un vaneggiamento mio, non avendo delle conoscenze approfondite su quello che è il sistema scolastico, magari dico delle cose inattuabili e o sbagliate a livello didattico, ma credo che le scuole professionali o troppo tecniche o che troppo professionalizzanti non siano una giusta scelta. Nel senso, penso che un ragazzino dovrebbe avere la possibilità di fare degli studi generici, anche approfonditi, un po' più che fino ai 14 anni. Cioè, secondo me, è il tutto per chiudere, secondo me dovrebbe esserci soltanto i licei. Classico, scientifico, linguistico, artistico, e poi da lì ti apre la possibilità o a lavorare o a fare dei corsi che ti professionalizzano o un'università di una roba che ti interessa, però almeno fino lì c'hai un percorso scolastico vero, cioè non una roba improvvisata giusto per insegnarti a fare una roba tecnica che imparerai probabilmente in 2 mesi nel momento in cui ci lavori su quella roba lì. Invece ci devi fare 5 anni o 2 anni o 3 anni, quello che è, per senza motivo, perché voglio dire, il tuo ceto sociale non implica niente sulle tue facoltà mentali o le possibilità che hai appunto in un percorso umanistico, in un percorso scientifico. Cioè, non è perché vivi in un quartieraccio, i tuoi non si possono permetterti di iscriverti in una scuola super costosa, allora tu non saprai fare che ne so, le equazioni. Cioè, non c'è nessuna correlazione tra le due cose. Cioè, sinceramente, avendo fatto un professionale nel quale sono arrivato agli ultimi 3 anni, mi sembra, nel quale c'erano sulle 30 ore settimanali 15 ore di materie tecniche e 15 di tutto il resto, vuol dire che tu hai 15 ore da dividere in matematica, fisica, diritto, cioè, è tutta roba che tendenzialmente potrebbe servirti a scuola. Cioè, non fai geografia a scuola, capì, alle superiori. Cioè, adesso non voglio saltare di paro in frasca, ma c'è un enorme e crescente ritorno di un certo razzismo che porta a parlare di confini, eccetera, quando la gente non sa nemmeno dove sono i posti dove vive la gente che odia. Cioè, è assurda sta roba. Però qualcuno dovrà darti queste nozioni, no? I quartieri hanno un'identità che dura 2 anni, cioè poi possono rimanere uguali a se stessi per anni se non se li caga nessuno. Appena entrano nelle grazie dei più, basta, cioè vedi Isola, cioè un posto che aveva la stessa aria di decadenza artistica, onirica, bla bla bla, fino a che non è diventato tutti cinese. Perché poi a un certo punto a tutti piaceva quella roba lì e ti ritrovi in un posto nel quale non parcheggi, non paghi niente meno di 8 euro, cioè. Però io penso anche che il fascino di certe zone, se lo ricerchi nella decadenza, non puoi neanche sperare che duri a lungo. Cioè il fascino sta proprio nel fatto che dura il tempo che dura, perché non puoi sperare che un posto rimanga decadente e dimenticato per sempre. A un certo punto qualcuno dirà: costruiamo un palazzo. Cioè, è successo a Ticinese, è successo a Isola, succederà in Ripamonti, lì stanno facendo la roba di Prada, eccetera. Cioè, io la prima volta che andai in Isola era un po' di anni fa, che adesso se mi sembra l'altro ieri, ma probabilmente erano 10 anni fa o 15 anni fa, non lo so. Avevo un'amica stretta che viveva lì e le prime volte che andavo c'era ancora la stecca degli artigiani e c'era quest'altro amico che stava nella ciclofficina lì, che era un baracchino in mezzo nella decadenza di cui ti parlavo prima. E ricordo adesso, non so se tu frequenti, conosci Piazza Archinto, dove c'era, che adesso vai e c'è il pienone pienissimo, c'era sto posto Vinil, si chiama, ok, che adesso mi sembra di aver capito che è quello che tira più gente. Io ricordo in quel posto, quando ha aperto, io e sta amica che abitava lì dietro, che andavamo lì, eravamo io e lei, e ci guardavano entrare come finalmente dei clienti, perché a parte il Frida non c'era un cazzo di niente in Isola all'epoca. Quindi sì, cioè l'ho vista un po' cambiare. Probabilmente è quello che ho visto cambiare di più. Quello è Ticinese. Che vabbè, poi sono i posti che ho frequentato. Prendi le colonne, cioè a un certo punto è passato dall'essere. O Ticinese in generale, più che le colonne, basta. Cioè, era anche lì un posto. Fiera di Sinigaglia, i punk che arrivavano da quasi mezza Lombardia per farsi il giro in Sinigaglia. Iper decadente. Il mercato comunale, che c'erano degli antri nel quale dovevi quasi aver paura a stare, e adesso è diventata la zona dei turisti, non c'è più niente di tutto quello. Cioè, bello, vabbè, bella, Darsena nuova, bella, però me la ricordo la palude che c'è stata per 5 anni al posto della Darsena. Sia fare cose, se le faccio da solo con la mia compagna, eccetera, è bello rimanere qua in zona. Per quanto riguarda beccare altra gente, il fatto di avere da anni tutti dei giri molto più lontani da qua, faccio un po' fatica a restare qua in zona. Ma tendenzialmente, appunto, zona da Ticinese a Porta Romana e un po' di giro a Milano Nord, Porta Venezia Isola. Tendenzialmente, appunto, ho amici storici che stanno praticamente in Loreto, da quelle parti là, e un altro giro di amici storici che stanno in zona Porta Romana. E quindi, appunto, è difficile stare qua, nonostante vorrei, perché sono sempre più pigro e mi piacerebbe e mi piace, quando riesco, a fare proprio la roba di scendere sotto casa e bersi una roba e fare 4 chiacchiere con qualcuno senza doversi fare mezz'ora di macchina o che okay. Nonostante viviamo in una città piccola e così trafficata che che questa cosa di Milano in effetti fa sempre pensare all'idea che si ha di Milano nel mondo, quando in realtà è un buco di culo, si può dire buco di culo? È una città minuscola che la vediamo come se fosse Londra, però Milano di per sé, cioè tu da un capo all'altro di Milano saranno 15 chilometri, 20 chilometri. È assurdo, come ti dicevo prima, che quando un amico che sta in Loreto ti viene a trovare e viene sotto casa tua, sembra che è in vacanza, che dice, no, perché bello anche qui avete i bar. Fa un po' ridere. Ed è una sensazione che parlavamo poi con loro, che invece lei è l'unica amica che c'è, che è qua, con il quale si riesce a beccarsi qua, ed è assurdo come la gente arrivi e pensi di essere in un'altra città. Commentavamo il fatto che magari sono gli amici nostri, quindi non voglio fare di tutto un erbo un fascio, ma sembra proprio che la gente che sta a Milano Nord, quindi appunto da Isola, Loreto, eccetera, abbia molta più possibilità lì intorno da non doversi muovere mai, e che quindi lo spostarsi, come noi abbiamo fatto per anni, perché poi quando sei di qua o stai di qua o vai da loro, sia inconcepibile. Beh, crescentissima secondo me, cioè proprio sta fiorendo, poi no, stiamo vedendo sbocciare poco, ma secondo me sboccia. Ma non lo so, cioè già solo, che ne so, il mercato comunale con Vito che fa che puoi mangiare lì, questo posto, il mare culturale, non lo so, tutta una serie di realtà, la cascina all'interno che fa i mercati, le cose, mi sembrano quelle realtà appunto di, diciamo, alternative alla normalità, se così si può chiamare, che siamo sempre stati abituati a vedere lontanissimo, perché qua magari non le conoscevo io, ma mi sembrava ci fossero meno. E poi vabbè, la metro potrebbe essere un cambiamento, il cinema all'aperto in Giambellino, i cortili in Giambellino, mi sembrano tutte robe che appunto una volta stavano altrove e adesso ci stiamo rendendo conto che si può fare anche qua, cioè non c'è bisogno di andare in via Padova. No, cercavamo da ste parti in realtà, banalmente per questioni pratiche, perché comunque, cioè, io c'ho i miei ancora a Buccinasco, la mia compagna c'ha suo padre che sta a Bonola, io lavoro in San Cristoforo, quindi 5 minuti da qua, la zona mi piaceva, perché comunque, per quanto non ci avessi mai abitato, mi sembrava popolare ma non ghetto, non so come dire, cioè nel senso non centrale ma abbastanza vicino al centro, con la metro, cioè mi sembrava che fosse ben servita, poi mi piace. E quindi abbiamo cercato qua in zona, cioè diciamo da Bandenere a Barona, cioè nel senso era un arco un po' ampio, sì. Ovest, cioè, sì, cioè volevo tornare da sta parte, mi ero un po' stufato di stare a nord-est. e poi vabbè, no, banalmente di qua è l'unico posto, almeno quando cercavo casa, senza appunto andare a nord, che l'avevo proprio scartato, era l'unico posto nel quale i prezzi erano abbordabili, erano decenti, e quindi abbiamo cercato qui intorno. L'ho girata tanto la città, cioè non sono mai stato. Ma secondo me questo, il problema è proprio il fatto che sono di provincia. Cioè, nel senso che venendo da Buccinasco e odiando il paesino limitrofo a Milano, non sono voluto mai stare lì. E quindi, cioè, tutte le mie serate, le mie giornate, il mio tempo libero, dai 16 anni in poi, era Milano. In realtà lo scooter ce l'avevo già prima, però. Nel senso che è stata una roba che volevo assolutamente dopo le medie, cioè quando è che lo puoi per 14 anni, sì. Sì, in prima superiore me l'hanno preso e lo usavo praticamente solo per andare a scuola all'epoca, che comunque era già una scuola a Milano. E poi c'è stato, diciamo, un periodo della mia vita strambo nel quale ho praticamente tagliato fuori tutte le persone che conoscevo. Nel senso che non mi piaceva la vita che stavo conducendo, perché venivo proprio da quelle realtà zarre di paese nel quale vai a fare lo struscio in Duomo, tutte quelle cazzate lì che non ho mai sopportato. E ho avuto a un certo punto, come ce l'ho per qualsiasi cosa ancora nella vita, il momento di rigetto nel quale non c'è il cambiamento morbido. A un certo punto dico, no, questa cosa basta. Ok? E questa cosa basta, quando ho avuto 14 anni, è stato con tutte le persone che conoscevo. E quindi, capisci, un ragazzino di 14 anni che dovrebbe iniziare a fare delle cose, che non aveva più amici, non conoscevo più nessuno. E quindi c'è stata quella, diciamo, quella latenza di 2-3 anni nel riconoscere gente, no? E per quello, appunto, 16-17 anni ho cominciato a fare cose, perché prima è stato tipo, dove vado? Chi conosco? Conosco quello. Ah, beh, poi sono allargate il ventaglio di conoscenze con la volontà di farlo. Ma in realtà, andando ancora a scuola, era più facile, perché, diciamo, questa domanda mi preoccuperebbe tantissimo se dovesse succedermi oggi, sinceramente. Ma perché oggi non avrei neanche la voglia di mettermi in gioco a pieno come facevo all'epoca, no? Cioè, all'epoca poteva essere veramente che conoscevo una persona che mi poteva sembrare interessante e dicevo, ok, cosa fai domani? Cioè, cosa fai ora? Cioè, andiamo? Sì, va bene, non ho nessun problema, facciamolo. Cioè, è aperto a tutto, sì a tutto, no? Che comunque è una scelta che ti porta a delle cose. Oggi ovviamente se qualcuno propone delle cose, ma vuoi per l'età, vuoi perché comunque sto bene, conosco delle persone, eccetera, sono un pochino più diffidente, un pochino più pigro, cioè diventa, adesso vediamo, poi capiamo, cioè, però all'epoca, sai, non c'hai un impegno, non c'hai un cazzo da fare, non c'hai una responsabilità, non c'hai, vai, fai. E quindi sì, principalmente la scuola, che mi ha portato a conoscere delle persone, tra l'altro neanche in classe con me, che conosci un altro, conosci un altro, conosci un altro, e alla fine, essendo uno anche abbastanza aperto a parlare, a far chiacchiera, cioè bastava concedersi, cioè bastava dire ok, vengo anch'io, ok, ci sono anch'io. Sono sempre finito in dei posti, specialmente all'inizio, sono sempre finito in dei posti portato da delle persone. Poi a un certo punto, e non so se è stato solo per me, ma sono sicuro che almeno per la mia ragazza è stato uguale, il Magnolia è stato un posto, secondo me, esattamente che faceva quello che hai detto. Nel senso, io c'è stato un periodo nel quale andavo da solo e conoscevi gente, perché tanto erano tutti lì, cioè beccavi sempre le stesse persone, nonostante fosse a Segrate, nonostante ci andassi di notte, nonostante ci andassi alterato, comunque beccavi delle persone che in qualche modo erano tuoi amici, cioè nonostante magari non sapevi neanche come si chiamavano. E quello, secondo me, è stato sicuramente un posto che ha avuto questa capacità, forse solo per me, non so quanto il posto ha fatto di suo, però magari qualcosa ha fatto anche lui. Perché poi invece, per quanto riguarda appunto quello che potevano essere bar, pub, eccetera, ci sono sempre andato più o meno con qualcuno consapevole di stare andando lì, cioè non vado e vediamo chi becco, che è un po' la cosa che mi è sempre mancata nella vita proprio, cioè quello che poi oggi cerco di ricercare in un bar, ed è quello che oggi sono felice più o meno di aver ritrovato qua, nell'ottica che semplicemente la persona che sta dietro al bancone conosce il mio nome e per dire oggi sono qua a fare sta cosa con te, banalmente. Cioè è un posto sotto casa nel quale vengo, ci posso venire anche solo a bermi un caffè e becco della gente a quale dire ciao, che è una cosa che sempre più mi sembra difficile a Milano, perché nessuno ha il bar sotto casa, nessuno si vive il bar come un posto dove andare da solo e beccare lì quelli che conosci. E invece nella, diciamo, in periferia o comunque nei piccoli paesi, per quello prima ti dicevo sto ripensando un po' a questa cosa di essere scappato dal piccolo paese. Nel piccolo paese questa cosa forse l'ho idealizzata io, ma mi sembra che possa succedere, perché comunque sei in cinque, siete tutti lì e vi beccherete anche se non vi siete organizzati. Milano oggi sembra che se devi mettere a planning il fatto che vorrai beccare dei tuoi amici tra 2 settimane, tra le 15 e le 22, cioè è tutto un po' difficile.